Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti cari gastronauti. Ebbene, oggi navigheremo per mari e soprattutto per ristoranti, ma ristoranti un po' particolari, perché è in atto una tendenza davvero molto intrigante a mangiare sempre di più sui pescherecci, a mangiare sempre di più su locali che hanno diciamo una pescheria e quindi sicuramente sono collegati al pesce fresco. Questa è una tendenza che chiede sempre di più il consumatore, vuol sapere cosa mangia, vuol sapere soprattutto quel pesce da dove arriva, vuol sapere anche se c'è l'abbattitore, perché questo ormai è diventato, come posso dire, un leitmotiv sicuramente di chi va a mangiare nei ristoranti di pesce. E allora oggi faremo un grande giro d'Italia, vi faremo scoprire dei posti che sono molto inconsueti dove mangiare il pesce. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle. Il pesce deve avere il sapore di mare, quindi bisogna mangiarlo direttamente dopo poco che si è pescato. E allora ecco perché questo Giro d'Italia. E noi lo iniziamo da Grado, lo iniziamo dal presidente della cooperativa Zero Miglia, appunto di Grado, perché i pescatori hanno un loro ristorante che si chiama Osteria di Mare Zero Miglia. Buongiorno a Antonio Santopolo. Buongiorno a lei. Quando è nata, Santopolo, questa idea di fare diciamo un vostro ristorante invece che servire sempre il pesce diciamo alla ristorazione tradizionale? Ma è nato nel 2010, questo è praticamente il quarto anno che siamo aperti. E è nata nel momento in cui abbiamo avuto delle difficoltà del settore pesca, e abbiamo deciso di provare una strada nuova, quindi dare al consumatore un prodotto fresco, certificato e del posto. Noi abbiamo il ristorante e abbiamo esclusivamente il pescato del giorno. Senta, voi siete nel porto di Grado? Come... Sì, siamo proprio sulla riva del porto, proprio a 100 metri dall'ingresso a sinistra. C'è la sede della cooperativa e a fianco, ecco perché Zero Miglia, abbiamo subito il ristorante. Ecco, mi spieghi un po' come avviene la giornata, cioè rientrano i pescherecci, rientra il peschereccio, sì. E quindi diciamo che il ristorante, o almeno questa osteria, sceglie il pesce. Sì, arrivano i soci alla mattina, diciamo entro mezzogiorno, quindi man mano che arrivano non so, le vongole, le carpe sante, tutto quello che è il prodotto nostrano, e chi poi gestisce la cucina fa un ordine, e man mano che arrivano i soci con il pesce, viene fatto subito una scelta, quindi in 5 minuti il pesce va al ristorante. Senta, chi cucina? Cioè avete un cuoco ex pescatore oppure avete un cuoco che... No, c'è un cuoco, uno chef, però con diciamo un'esperienza così di cucina del pesce. Senta, quali sono diciamo le specialità della vostra osteria? Allora abbiamo come specialità, allora il piatto forte tra virgolette nostro è il fritto misto, un fritto misto che unisce i pesci della laguna a quelli del mare, quindi la sardina che si sposa con il gamberetto di laguna o il latterino col il cefalo di laguna. E un piatto particolare potrei dire è la burrata con dei filetti di cefalo passati con la fiamma, ecco, quindi abbiamo fatto questa specie di connubio tra... È molto bello questo di far assaggiare le due specialità della laguna e del mare, sicuramente dell'Adriatico. Ecco, E poi c'è un piatto che è la burrata, e sappiamo insomma che la burrata è un piatto tipico del sud Italia, della Puglia, dove nasce, e l'abbiamo fatto sposare con il pesce, e devo dire che la gente lo apprezza moltissimo. Senta Antonio, ma in questa maniera, diciamoci la verità, chi viene a mangiare da voi risparmia? Sì, sicuramente sì, perché noi qua abbiamo visto, intanto abbiamo voluto un po' offrire alla gente, cercare di far capire che anche il pesce povero, tra virgolette, è buono. Il solito tonno, per noi, io parlo adesso da parte, il solito il tonno, lo scampo, noi qua non ce l'abbiamo. Non Senta, l'abbiamo. Rimanga con noi, perché voglio collegarmi con un suo collega di Marina di Varazze, quindi andiamo in Liguria con Davide Petrini. Buongiorno Petrini. Buongiorno a voi. Presidente della cooperativa di pescatori Il Pesce Pazzo. Perché lo avete chiamato Il Pesce Pazzo, questo posto? Beh, questo qua era il nome che da bambino mi davano i miei maestri pescatori, perché io ero più nell'acqua che fuori dall'acqua, e quindi era inevitabile che mi venisse affibbiato un nome del genere. Senta, con quello poi abbiamo proseguito. Senta Petrini, ma da voi si risparmia rispetto al ristorante? Sul risparmio sicuramente sì, nel senso che se da un collega ristoratore classico un antipasto, noi facciamo un menù fisso, facciamo un menù di degustazione in base al pescato del giorno delle nostre barche, ed è a 39 euro comprensivo del piatto dei dolci, escluse le bevande. Questi ecco, sono i nostri prezzi, con un antipasto, un primo, un secondo. Indubbiamente da noi qualche cosina si risparmia. La cosa però più evidente è proprio il prodotto assolutamente fresco. Senta Petrini, volevo chiederle una cosa, ma l'ittiturismo, voi fate dell'ittiturismo, di che cosa si tratta? Allora, l'ittiturismo è proprio quello che il mio collega ha detto poco innanzi, nel senso il pescatore nella sua evoluzione, perché questa è un'attività che si sta evolvendo, ha la possibilità di fare altre attività che non siano solo ed esclusivamente quelle della pesca, quindi anche la possibilità di fare ristorazione e anche addirittura pernotto per gli ospiti che volessero fermarsi nelle sue abitazioni oppure in una struttura creata ad hoc. E l'ittiturismo è proprio questo, cioè vivere nella casa del pescatore, che il pescatore ti somministra, ti dà da mangiare il pesce che ha pescato, piuttosto che tenerti per la notte. Senta, anche lei è convinto così di aver incrociato un po' la richiesta vostra, il problema vostro, che sempre di più è difficile in questo momento con la congiuntura vendere pesce, con le esigenze di un consumatore che vuole sempre di più ricercare pesce fresco e sano? Beh, assolutamente sì. Io tra l'altro vorrei darle proprio un dato brevissimo per farle capire qual è l'interesse da parte del consumatore. Noi siamo partiti nel 2006 da 3 individui e adesso siamo in 21, quindi con una crescita esponenziale annua, una richiesta veramente a cui noi... Cioè 21 pescatori o 21 barche? Mi scusi? 21 pescatori o 21 barche? No, 21 pescatori, 21 soci. Ho capito. Soci che poi nel complesso delle attività hanno diverse funzioni. Chi fa il pescatore, chi fa la parte a certo, terra, quindi la ristorazione, piuttosto che il servizio ai tavoli, piuttosto che... E noi ci siamo studiati, tra l'altro l'abbiamo diversificato in due punti ristoro questo tipo di attività. Nel primo facciamo, come le ho detto, il menù, quindi classico, antipasto primo e secondo. Nell'altro nostro punto ristoro facciamo, noi l'abbiamo chiamata la merenda del pescatore, che è un cartoccio di pesce fritto con il vino bianco che friggiamo direttamente su uno dei nostri pescherecci e lo serviamo in banchina. Entrambe le iniziative hanno avuto un successo. Quindi si può mangiare direttamente in barca, insomma? Si può mangiare sulla banchina, sì, davanti innanzi al peschereccio, e per quello che riguarda il ristorante invece si può mangiare, noi abbiamo allestito una piattaforma proprio sull'acqua e si può mangiare su questa piattaforma. Sono due cose molto particolari, molto caratteristiche. Bene, allora grazie a Davide Petrini, Marina di Varazze, il pesce pazzo, e Antonio Santopolo, cooperativa Zero Miglia di Grado. il gastronauta. Eccoci di nuovo in navigazione, perché oggi sì, oggi navighiamo tra barche, pescherecci e pescherie. Facciamo questo lungo viaggio intorno all'Italia alla scoperta di quei posti nuovi che stanno emergendo, cioè mangiare in barca, mangiare in pescheria. È una grande richiesta da parte del consumatore, ma anche un'esigenza in molti casi da parte di queste cooperative dei pescatori. Ebbene, io volevo ricordare che proprio in questo momento in Abruzzo c'è una manifestazione che si chiama Cala Lenta. Ebbene, sono aperti tutti i trabocchi, che sono queste meravigliose costruzioni in legno di decine di anni fa, che oggi sono state riadattate, e molte di queste si può mangiare e si può vedere anche pescare direttamente. Io ne vorrei ricordare una, Punta Cavalluccio, appunto, dove veramente è straordinario vedere in movimento sia le reti e poi vedere anche il pesce e vederlo cucinato. Ma continueremo questo viaggio, come dicevo, tra pescatori e pescherie, e ci sono molti molti molti pezzi musicali che ricordano i pescatori di solito. All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura. Erano gli specchi d'un'avventura. E questo è sicuramente Fabrizio De Andrè, l'avete capito tutti, ma era molto sensibile, genovese, molto sensibile al mare e anche, diciamo, le acciughe, perché ha scritto un pezzo bellissimo sulle acciughe, ma anche appunto sui pescatori. E allora noi ora non andiamo a Genova, ci siamo già stati, siamo stati a Marina di Varazze, ma andiamo ad Orbetello, posto famosissimo per i muggini. È vero, Pierluigi Piro, presidente della cooperativa I Pescatori? Non solo per i muggini, ma anche per Varata, direi, Varata di Orbetello. Sì, no, dicevo le muggine perché sicuramente è uno di quelli che immediatamente, uno di quei pesci che viene in mente collegato ad Orbetello, ma non volevo dire che era solo questo. Senta, Piro, voi siete una cooperativa di pescatori che avete deciso di dar vita anche alla ristorazione. Volevo capire, cioè ristorazione, quindi ovviamente il pesce più fresco di così si muore, come si dice? Sì, diciamo che arriva in terra la mattina, viene pulito e viene somministrato. Noi lo definiamo centro di degustazione dei prodotti tipici, in verità, perché lavoriamo all'eccellenza della laguna, esclusivamente i prodotti della laguna, che sono le anguille, i cefali, la bottarga, le orate e la spigola sostanzialmente. Devo dire che fa parte di un percorso dove l'ospite può andare a vedere pescare il pesce e dopo un'ora lo può ritrovare in tavola sostanzialmente. Senta Piro, la bottarga, lei ha toccato un tasto molto interessante, la bottarga di Mugine, e che è diversa da quella sicuramente di tonno, sono anche due consistenze, due sapori completamente diversi. Le volevo chiedere, ultimamente, così si dice, ma a Orbetello non succede, che buona parte della bottarga di Mugine che si trova in vendita un po' in tutta Italia arrivi dai paesi africani. È vero, tranne che a Orbetello. Orbetello ha fatto una scelta. La nostra azienda ha fatto una scelta, lavoriamo la bottarga di Mugine cefalo, cioè di un cefalo più grande del Mugine sostanzialmente. La bottarga di Orbetello è un presidio slow food ed è stato nominato nel 2012 primo alimento toscano nel mondo, quindi noi lavoriamo sulla qualità, non facendoci così dire intimidire dal mercato, ma è vero quello che dice lei, che pur di entrare nei mercati si acquistano bottarghe FAO 34, Mauritania, eccetera, si trasformano in Italia. Ecco, lei ha citato una cosa interessante che credo che sia giusto spiegare ai nostri radioascoltatori. Ha citato una sigla FAO 34, e che diciamo che chi volesse poi riscontrare su tanti tipi di pesce l'origine lo potrebbe fare attraverso queste sigle. Esatto, lo dovrebbe fare attraverso queste sigle, ma la cosa, diciamo così, preoccupante è che non tutti i negozi affiancano alle sigle diciamo, la provenienza. Cioè la cliente va lì, vede FAO 34 o se lo va a cercare su internet, oppure deve farsi dare spiegazioni, perché effettivamente è un'informazione non completa. Ecco, io è l'ennesima volta che ritorno su questo argomento, ed è sono i cartellini delle pescherie. Di solito nelle pescherie si leggono i cartellini, ma questo purtroppo è previsto dalla regolamentazione, provenienza Oceano Indiano, provenienza Oceano Pacifico, però non significa assolutamente niente, perché è molto molto molto vago. Ma rimanga con noi, Piero, perché voglio rivolgere questa domanda a Ilaria Bottino, che è titolare del ristorante Mercato del Pesce di Milano. Buongiorno signora Bottino. Buongiorno a tutti. Lei cosa ne pensa? Sarebbe molto più giusto mettere nelle pescherie i cartellini con ben definito da dove arriva quel pesce? Assolutamente sì, infatti da noi in pescheria questo avviene, viene anche spiegato al cliente non solo la zona di origine e generica, ma proprio tutta la storia del pesce, da dove arriva e come viene approvvigionato la nostra pescheria e quindi di conseguenza anche il nostro ristorante. Ecco, ma sono carenti i controlli? Diciamo che dovrebbe essere fatti appunto per verificare sui cartellini, perché io vedo sempre di più la mancanza dei cartellini nelle pescherie, oppure questo fatto generico. Ma vi controllano ogni tanto? Assolutamente sì, arrivano direttamente anche dalla Capitaneria di Porto di Genova, lo fanno diverse strutture, l'ASL stessa, e c'è una regolamentazione molto molto esigente, giustamente, perché chi acquista il pesce deve sapere cosa acquista, da dove arriva, la provenienza, tutto quello che è del pesce, come è giusto che sia, no? Torno un secondo a Pierluigi Piero, abbiamo parlato di bottarga, io sono un appassionato di bottarga di Mugine. Mi racconta un pesce a base di bottarga, Piero? Guardi, la bottarga è così buona e così un piatto a base di bottarga, sì. Noi nel nostro ristorante, nel nostro centro di degustazione, che ci terrei a dire che vanta 56.000 presenze l'anno circa, noi la somministriamo semplicemente con olio, aglio, olio e peperoncino, oppure da quest'anno abbiamo fatto una variante con vongole italiane, quindi uno spaghetto con vongole, verace e bottarga saltati in padella con aglio e pomodoro pachino. E devo dire che è un piatto che va per la maggiore, soprattutto nel nostro centro di degustazione. Io olio, aglio e peperoncino, ma aggiungo anche un po' di prezzemolo, Piero, lei cosa ne dice? Sì, noi il prezzemolo lo aggiungiamo, non lo cuociamo, lo aggiungiamo certo. Insieme alla bottarga, perché la bottarga viene amalgamata soltanto con un pochino d'acqua di cottura e poi viene saltata a crudo, anche per far sentire l'aroma, il profumo e l'interezza del piacere di averla nel palato. Poi, beh, chiediamo alla signora Bottino del Mercato del Pesce di Milano, che tra l'altro è un ristorante pescheria, se fa un piatto a base di bottarga, signora. Assolutamente sì, il piatto con la bottarga è un piatto classico che viene servito al ristorante, come lo avete descritto voi, peraltro è uno dei miei piatti preferiti. E beh, siamo in tanti allora ad amare la bottarga. Sì, soprattutto quella di Mugine, per quello che mi riguarda e per quello che vedo e sento dai clienti del ristorante, molto amata. Ecco, voi siete una pescheria e siete un ristorante, com'è nata questa idea? Noi nasciamo come pescheria. E tantissime volte ci è capitato di sentire clienti che avrebbero gradito degustare il pesce fresco proprio presso di noi, quindi è nato tutto proprio da un'esigenza dei clienti. Abbiamo iniziato molto alla buona con delle tavolate, servendo degli aperitivi, e dopodiché siamo diventati un vero e proprio ristorante all'interno della pescheria, un cubo di vetro che un po' rispecchia il mare, che rievoca, no, al mare, che ci fa da padrone qui dentro, e funziona, la gente arriva, sceglie il pesce dal banco, se lo fa cucinare come desidera. Noi abbiamo un nostro menù che ovviamente arriva dalla cucina, sono delle proposte dello chef, ma poi si può fare di tutto, si può avere il pesce che si vuole. Voi prendete il pesce direttamente dal mercato di Milano? Certo, direttamente tutte le notti. Tutte le notti, quindi alla mattina, cioè alla notte, è il momento migliore per comprare il pesce, ovviamente. Assolutamente sì, il mercato a Milano, adesso nella sede vicino ovviamente a dove è l'arrivo del pesce fresco, che è vicino alla zona di Linate, arriva tutte le mattine. Noi tutte le mattine alle 4 andiamo a fare approvvigionamento per la pescheria e per il ristorante. Qual è il pesce che, diciamo, viene chiesto di più dai consumatori? Ma in realtà i gusti sono abbastanza ampi, ovviamente quelli conosciuti, branzini, orate, però stanno andando anche pesci azzurri che fanno peraltro molto bene e quindi io sto facendo una campagna, basta col branzino, basta con questi pesci con l'orata, consumiamo suro, sugarello, palamita invece di tonno. Assolutamente. Perché costano meno e sicuramente sono molto più buoni anche al palato. Lei Piro la pensa alla stessa maniera mia o no? Noi stiamo facendo una campagna di valorizzazione del pesce definito povero. Noi per esempio nel nostro laboratorio di trasformazione, perché noi facciamo anche sughi e affumicati, la palamita è diventata un fiore all'occhiello, anch'essa presidio Slow Food. Noi stiamo valorizzando tantissimo il cefalo, che esiste il mugine, che esiste di varie specie ed ha sicuramente una carne ottima, compatta e si presenta appunto nelle varianti nella cucina. Noi facciamo un filetto di cefalo affumicato, che è qualcosa di straordinario che il nostro pubblico e i nostri clienti, come dire, gradiscono assolutamente. Sono assolutamente d'accordo con lei e con la signora, bisogna lavorare per dare la possibilità anche ai pescatori, quelli che vanno in mare la mattina, di non vedersi, come dire, rifiutare un pesce che comunque vada, deve essere valorizzato. Signora, volevo chiederle qual è il piatto, diciamo, il piatto cult del suo ristorante? Ah, non esiste, perché sono tutti così. Ah, bene, bene. Riusciamo ad avere un cult per ogni tipo di pesce. Bene, allora, Ristorante Mercato del Pesce di Milano e Pierluigi Piro, presidente della cooperativa I Pescatori di Orbetello. Buona estate a tutti. Continuiamo a mangiare pesce fresco e magari anche pesce azzurro. Il gastronauta. Continuiamo a navigare su e giù per i nostri bellissimi mari, i nostri Mare Nostrum. Eccoci, allora andiamo dall'alto verso il basso e ora andremo anche a Roma. Andremo a Roma e poi andremo a Fano. Quindi un Fano, c'è un mercato veramente molto interessante del pesce. Ma io voglio tornare un po', voglio ritrovare un po' il clima del mare. Sapore di sale, sapore di mare. Ecco, il sapore di mare, bisognerebbe trovare quello sul pesce. Molte volte purtroppo non si trova, molte volte si trovano veramente dei locali dove il pesce non si sa bene da dove arriva e non si sa bene dove anche andrà, non si sa se è di allevamento, non si sa se è di mare, non si sa se è pescato con l'amo, come si trova scritto molte volte, ma sarà veramente così? Non si sa se è in cucina, di solito esiste o non esiste l'abbattitore, che è uno dei mezzi oggi importanti per garantire la salute del consumatore. Ma andiamo in un locale a Roma che sicuramente ha molte di queste prerogative positive. Andiamo al San Lorenzo, e dove troviamo lo chef patron Enrico Pierri. Buongiorno Pierri. Buongiorno Davide, buongiorno a voi. Senta Pierri, ci vuole raccontare ai nostri radioascoltatori l'importanza dell'abbattitore in cucine di chi tratta pesce? L'importanza vitale, direi, dell'abbattitore per chi tratta pesce e anche per chi generalmente fa un lavoro di qualità, a prescindere dal pesce. È una macchina che praticamente che noi come realtà abbiamo introdotto già dal 2002 nella nostra prima azienda qui a Roma. È una macchina praticamente che ha un vantaggio, che è quella praticamente di preservare l'alimento che tu tratti, di fargli conservare tutte le caratteristiche organolettiche come appena pescato, perché a differenza di un processo di congelamento sviluppa dei microcristalli in modo tale che quando poi l'alimento viene portato a temperatura naturale non perde acqua e quindi praticamente non elimina tutte le capacità organolettiche di quello che noi abbiamo abbattuto. Ecco, rimanga con noi perché poi torneremo. Ora facciamo un salto a Fano, facciamo un salto da Marco Pezzolesi della cooperativa Pescatori di Fano. Buongiorno Pezzolesi. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Bene, devo dire che il mercato di Fano, io sono stato più volte ed è veramente uno spettacolo, un gioiellino, e mi fa piacere parlare con la cooperativa pescatori di Fano, perché anche loro sono stati tra i primi, se ben ricordo, a trasformare appunto, diciamo, la barca, il peschereccio in un ristorante. Da quanto tempo avete questo ristorante, Pezzolesi? Ma noi, diciamo, come esperienza nel campo della ristorazione, io amo definirmi poi dei pescatori prestati alla ristorazione, nel nostro caso noi da 30 anni con altre attività di ristorazione, self-service, poi anche una piccola catena abbiamo creato lungo la costa adriatica, ma l'imbarcazione, quindi il ristorante galleggiante, che oggi è un fast food galleggiante, è iniziata questa avventura nel 2007 esattamente. Perché lo chiamate fast food? Perché diciamo che ci siamo un po' allineati su questo format che noi abbiamo adottato, come le accennavo, in ben 4 locali a terra, quindi in strutture fisse in terra, dove facciamo un self-service noi con un menù completo di 5 piatti, tutte a base di pesce ovviamente, a 12 euro, pane, coperto, acqua e vino, tutto quanto, e diciamo la nostra specializzazione, il nostro format è diventato questo, e sebbene con questo galleggiante inizialmente avevamo tentato un tipo di ristorazione diversa, di un livello, un target superiore, diciamo che alla fine ci siamo invece adeguati su un livello più simile a quello dei nostri altri ristoranti, perché diciamo siamo più all'altezza, a essere onesti, di trattare un tipo di ristorazione di questo tipo piuttosto che di un livello di qualità elevata, cioè diciamo che la qualità del prodotto è sempre elevato, nel senso che trattiamo prodotto prevalentemente che ci arriva dai nostri soci, dai nostri pescatori, ovviamente non tutto è possibile trattare, sì, quello dei nostri soci, perché le quantità che facciamo sono elevate, quindi non ce la faremo nemmeno, però ecco, diciamo che i collegamenti che abbiamo con le altre cooperative pescatori lungo la costa, ma anche a livello nazionale, ci consente di non rimanere mai senza prodotto, di trattare sempre prodotto migliore. Insomma. Rimanga con noi, torniamo a Roma, torniamo al San Lorenzo. San Lorenzo è un ristorante, diciamo, di alto livello, con una grande cucina, ma il pesce, se non erro, arriva tutto da Ponza, vero Pierri? Sì, noi abbiamo fatto questa scelta di coinvolgere nel nostro progetto la cooperativa dei pescatori di Ponza, per cui noi sull'isola non abbiamo un'asta, ma tutto confluisce nella cooperativa Pesca 2000. Noi cerchiamo di diffondere un concetto che è un po' quello che anima la scelta, cioè la spesa di tutti noi quando andiamo al mercato, e cioè è difficile che noi al mercato a dicembre andiamo per chiedere le ciliegie. Sul pesce questo tipo di informazione stenta ancora a decollare. Ecco, ora la fermo, poi la faccio continuare. Io sto facendo delle battaglie più volte, ho fatto delle puntate sulla stagionalità del pesce, perché secondo me non si capisce che seguendo la stagionalità del pesce si può risparmiare e avere una certa certezza sulla freschezza. Assolutamente sì, è un modo anche questo per combattere sicuramente la crisi, in termini di poter mettere a tavola dei prodotti sani senza dover praticamente, insomma, avere un salasso. Ecco Pierri, qual è la stagione in questo momento? Quali sono i pesci di stagione? Chiamiamoli così. Sì, in questo momento c'è praticamente, essendoci la pesca a traino nel suo momento migliore, abbiamo tantissimi pesci spada, abbiamo ricciole, abbiamo dei dentici meravigliosi, per esempio le alici, questa è la stagione migliore fino a settembre, e sono tutti prodotti che praticamente arrivano in questo modo sulla tavola ad un costo sicuramente diverso che chiedere costantemente spigole e orate, che ecco, hanno praticamente un tempo di pesca diverso rispetto a questi mesi che stiamo vivendo ora. Pezzolesi, dalle vostre parti nell'Adriatico, questa è la stagione di quali pesci? Sì, come diceva l'altro signore, il collega, sicuramente il pesce azzurro c'è sempre in abbondanza in questo periodo, tant'è che noi prevalentemente trattiamo questo tipo di pesce. È vero che nel mese di luglio è un periodo in cui comincia a scarseggiare un po' tutte le qualità, tutte le specie, tant'è che noi siamo in procinto e speriamo che anche quest'anno dia i suoi frutti, di fare il fermo di pesca temporaneo, che secondo noi è una cosa, ma non solo secondo i pescatori ma anche secondo i ricercatori, è ritenuta una cosa fondamentale È vero che poi ci dividiamo sulle varie soluzioni di fare il fermo, però tutti quanti, da ricercatori e pescatori, siamo dell'idea che è un provvedimento indispensabile, importante per il mantenimento dei nostri stock, per cui siamo adesso a ridosso del fermo e soffre un po' tutte le qualità di specie ittiche da noi. Dopo il fermo pesca da settembre, dal 15 settembre in alcune aree, dai primi settembre in altre aree, perché c'è una divisione tra le varie zone dell'Adriatico, sicuramente ci saranno maggiori quantità un po' di tutto, però ecco, il pesce azzurro che noi trattiamo in prevalenza, come diceva il signore, sicuramente è quello che la fa da padrone, ce n'abbiamo in quantità enormi e sicuramente molto, per fortuna delle nostre attività anche, ma un po' di tutto l'ecosistema, di tutto, ne abbiamo in quantità molto molto superiore a quello che è il consumo. Senta Pezzolesi, anni fa, non so se ancora, mi ricordo, me ne sono occupato, che il mercato del pesce di Fano faceva ogni mese, diciamo, proclamava il pesce del mese, e c'era un collegamento con i ristoranti della zona che diciamo cucinavano questo tipo di pesce. C'è ancora questa iniziativa? No, per la verità questa era un'iniziativa, sì, felice sicuramente, che era stata portata avanti e da alcuni anni non c'è più, per la verità. Peccato. Ora siamo noi, cooperativa pescatori, che gestiamo direttamente. Prima era la gestione in mano all'amministrazione comunale, il comune di Fano, poi un po' come tutti i mercati ittici della riviera, che sono gestiti direttamente dalla cooperativa pescatori, anche la nostra cooperativa adesso da 3 anni circa gestisce il mercato ittico. Questa è una di quelle iniziative, purtroppo, sicuramente è stata felice, ma che non l'abbiamo portata avanti, no, questo no. Pierri, volevo chiederle che in questi ultimi anni, cioè l'ultimo anno, l'acciuga e le alici sono tornate di prepotenza nella ristorazione. È un fatto di congiuntura per cui l'acciuga costa meno e quindi si diciamo cucina questo, oppure veramente il consumatore la chiede perché hanno capito che questo pesce è straordinario? Ma io voglio sperare che sia la seconda ipotesi, nel consumatore, a muovere certe scelte. Noi a tal proposito abbiamo sposato un progetto già dal 2010, che è stato quello praticamente di avere in carta un menù che si chiama menù povero pesce. È un menù degustazione di 7 portate, in cui praticamente viene lavorato soltanto ed esclusivamente pesce azzurro, e che praticamente va a finire sulle tavole del consumatore a 65 euro. Ovviamente dietro a questo progetto c'è la volontà di fare comunicazione, e cioè praticamente c'è la volontà di far capire che uno sgombro in stagione è sicuramente un prodotto che si compra ad un prezzo veramente accettabilissimo rispetto alla volontà di voler chiedere nel mese di luglio, come succede in tanti litorali, un fritto di calamaro, quando poi sappiamo benissimo che questo tipo di pesca comincia soltanto a fine settembre. Per cui sicuramente c'è stata l'iniziativa che è stata volta a voler dare un segnale di andare contro la crisi in una direzione diversa, anche in ristoranti dove praticamente c'è un livello alto di attenzione al cliente e di qualità del prodotto. Dall'altro lato, ed è quello che maggiormente ha motivato la nostra scelta, è stato quello di voler comunicare che esistono tantissime varietà di pesce che, seguendo la stagionalità, hanno un'accessibilità decisamente diversa. Volevo tornare a Pezzolesi per chiedere, durante il periodo di fermo biologico, sicuramente non tutti rispettano al 100% il fermo biologico, e quindi quali sono, diciamo, la normativa che, se qualcuno viene colpito mentre appunto pesca durante quel periodo, ciò che è vietato? Ma sicuramente c'è un controllo da parte delle capitanerie di porto, le imbarcazioni debbono depositare tutta la documentazione nelle capitanerie di porto, quindi sarebbero fuori legge se andassero in mare sotto vari profili, quindi le sanzioni sarebbero di vario genere e sicuramente elevatissime, e possono essere sanzionabili in qualsiasi momento, già a partire dal porto di base, perché le capitanerie di porto vedrebbero subito se mancano delle imbarcazioni dall'ormeggio nella mattinata, ma in più, ecco, visto che i documenti sono ritirati, sono in capitaneria, è assolutamente, ritengo io, impossibile che questo riesca ad avvenire. Bene. Meglio così, poi, meglio così. Perderebbero il premio del fermo di pesca, l'indennità degli equipaggi, certo. Quindi ci sarebbero delle conseguenze che rendono sicuramente impossibile un evento di questo tipo. Bene, grazie a Marco Pezzolesi, cooperativa pescatori di Fano, e Enrico Pierri, chef e patron del ristorante Il San Lorenzo di Roma. il gastronauta. Continuiamo a navigare su e giù per l'Italia, andiamo a visitare pescherie e pescherecci dove poter mangiare un pesce sicuramente molto ma molto fresco. Abbiamo detto che c'è questa tendenza del consumatore a volere essere sempre più sicuro della freschezza del pesce, della qualità del pesce, e andarci a cercare anche luoghi e posti che non sono i ristoranti tradizionali, ma in molti casi appunto sono pescherie oppure sono anche pescheggi, come abbiamo visto. Ora andiamo in un'isola bellissima, un'isola che purtroppo è sempre, diciamo, all'ordine delle cronache, ma non sicuramente per la sua bellezza del mare e per la sua bellezza anche dell'isola stessa. Sicuramente rimane un posto favoloso e sicuramente dove andare. Andiamo a Lampedusa, andiamo alla trattoria Pescheria Azzurra da Giuseppe Solina. Buongiorno Solina. Buongiorno a tutti. Solina, oggi cosa offre il menù? Ma guardi, noi appunto, ascoltando il suo discorso delle trattorie pescherie, noi essendo una famiglia di pescatori, 15 anni fa, insieme a mio papà, abbiamo deciso con la mamma, che è appassionata della cucina, abbiamo cercato di fare qualcosa di originale, così come ha detto lei, trattoria Pescheria Azzurra. Perché? Perché il cliente viene direttamente sul banco della pescheria e ha la possibilità di scegliere il pesce proprio a contatto con il peschereccio, cioè il pesce fresco di giornata, e decidere come mangiarlo, non solo al tavolo ma anche trasporto, portarlo a casa. Quindi, ma oggi in questo periodo, diciamo, qual è il pesce, quali sono i pesci, chiamiamoli di stagione, perché è giusto anche dare stagionalità, sì, al pesce? Sì. No, qua c'è una pesca varia, dalla ricciola, dal pesce spada, ai polipi, calamari, scorpani, seppie. Si può dire che è un mare pescoso, quindi si pesca un po' di tutto. Ma è un periodo ottimo questo per mangiare pesce, o è meglio molto l'inverno? No, qua sempre, tutto l'anno si può dire che è sempre buono. Poi ci sono i periodi come febbraio e marzo, che il pesce dove ancora c'ha l'uovo, e allora ha un altro sapore, è più buono, diciamo. Rimanga con noi, che ora andiamo a Roma, andiamo in una pescheria, la pescheria di Largo Irpigna di Roma, andiamo da Massimiliano Buttaroni. Buongiorno Buttaroni. Buongiorno a lei. Senta, ma cos'è questo pesce di nome Wanda che voi organizzate una volta a settimana, mi sembra di capire? In pratica è un aperitivo, noi facciamo assaggiare tutte le cose che facciamo direttamente nel nostro negozio in cucina, facciamo assaggiare ai nostri clienti, quindi è un aperitivo di pesce che parte anche dal crudo, con poi pesce marinato, antipasti e anche un po' di pasta così. Senta, il pesce di nome Wanda l'avete preso dal famoso film, quindi... Sì, questo sì. Senta Buttaroni, il mercato, voi dove vi approvvigionate, al mercato del pesce di Roma? Noi andiamo ad Anzio a prenderlo, alle cooperative il pomeriggio quando rientrano le barche. Poi ci sono due cooperative che sono le aste, prendiamo direttamente il pesce là, e poi verso sempre il pomeriggio 18:30 scarichiamo al negozio sempre qui di Largo Irpigna, per far vedere anche ai clienti il nostro prodotto, che viene direttamente preso dalle aste di Anzio. Rimanga con noi, andiamo a Santa Severa da Fabio Quartieri, l'isola del pescatore. Buongiorno Quartieri. Buongiorno a lei. Quindi voi siete pescatori che cucinate anche, cioè fate anche ristorazione? Noi abbiamo un ristorante direttamente sul mare all'ombra del castello di Santa Severa, e abbiamo anche una barca nostra da pesca che ci approvvigioniamo tutto il pesce qui della costa. Ecco, qual è diciamo, in questo momento il pesce della costa migliore che da richiedere appunto durante i mesi estivi? Guardi, dal tonno, e poi qui essendo un fondale di sabbia lavoriamo prettamente pesce di sabbia, quindi dalle orate, le ombrine, i rombi, rombo chiodato, ovviamente noi lavoriamo tutto prodotto a vista, quindi i clienti quando vengono possono vedere il prodotto stesso. Invece all'asta di Civitavecchia compriamo sia i gamberi e scampi freschi e tutto ciò che è il prodotto di paranza, quindi dai calamaretti ai totani, al calamaro fresco zuccherino, e quindi poi lavoriamo questi prodotti, si può dire a chilometro zero, perché da Civitavecchia pescano proprio davanti al nostro locale con queste paranze. Senta, al ristorante qual è, diciamo, quali sono i piatti preferiti, cioè i piatti che voi ritenete? Il crudo fa proprio da padrone, noi lavoriamo un crudo poi molto ampio, quindi parte dai scampi a tutti i carpacci sfilettati a scelta, perché facendo l'esposizione il cliente può scegliere i prodotti stessi, quindi dalle mormore alle ombrine, alle orate, alle spigole, quindi sfilettiamo tutto in diretta, tutto a crudo. Mi fate venire fame, comunque fra poco andrò a mangiare anch'io. Grazie, questo era il nostro intento, volevamo raggiungere questo obiettivo. Senta Quartieri, ma sì. Il cliente vi chiede sul crudo se l'avete abbattuto il pesce? Sì, noi abbiamo un abbattitore, poi le devo dire che è un periodo che siamo molto controllati proprio perché si sa di questa grande moda dei crudi, quindi abbiamo spesso verifiche da parte della ASL, della veterinaria, cosa che a noi ci fa piacere perché ci teniamo molto alla lavorazione del prodotto in abbattitura. Voglio tornare un momento a Lampedusa, voglio tornare da Giuseppe Solina. Prego, Solina, prego. Solina, anche sì. Voi fate pesce crudo? Sì, noi facciamo anche pesce crudo e sono d'accordo con il collega che oggi è importante lavorarlo e abbatterlo nell'abbattitore, in modo che dai anche la sicurezza al cliente di quello che mangia. Voglio chiedere la stessa cosa a Buttaroni, se il cliente è sempre più attento a queste cose, se chiede da dove proviene il pesce. Sì, giustamente, il cliente vuole sapere, è per questo che io quasi tutti i giorni vado a Anzio e arrivo col pesce fresco e loro vedono che scarico proprio direttamente da Anzio. Quindi mi chiedono sì queste cose del crudo e poi proprio me ne occupo direttamente io. Quindi voi lo fate già pronto anche per il cliente il crudo, che può portarselo a casa e mangiarlo anche a casa, immagino. Sì, io faccio pure pronto sia il crudo e poi ho anche dei espositori take away, quindi loro possono prendere qualsiasi cosa da me, già anche cotto e preparato. Voglio chiedere a Fabio Quartieri, qual è il trucco per distinguere un pesce d'allevamento da un pesce di mare? Dal colore, dalla vista e proprio dalla formazione poi diversa. E spesso poi il pesce comunque di pescato locale che noi peschiamo con tramagli chiari fatti di nylon, non più di corda, e quindi spesso ha il segno proprio sulla testa del pesce. E poi è proprio di colore diverso e di formazione diverso, è proprio una conformazione totalmente diversa. Solina, ma ha preparato qualche piatto per il Papa Francesco durante la visita? Proprio in questa giornata che per me è stata epocale, addirittura io sono riuscito anche a chiudere il ristorante. Ah, chiuso il ristorante quindi? Lo posso dire tranquillamente, a pranzo, però la sera. Senta, ci sono molti turisti in questo momento a Lampedusa? Veramente ci sono molti turisti e speriamo che la stagione continua così. Volevo chiedere a Buttaroni. Buttaroni, secondo lei qual è il mese migliore per mangiare il pesce? Io direi maggio, giugno, perché c'è tanto pescato, come adesso per esempio stanno pescando molto pesce azzurro, alici, sgombri, pesce spada. Insomma, ecco, il periodo migliore va dalla primavera all'estate, diciamo. Ora faccio una domanda a tutti e tre, comincio da Quartieri. Quartieri, molta, sì, gente, molta gente si lamenta che il pesce è caro. Il pesce è caro perché la gente non sa quello che significa pescare un pesce. Porto subito un esempio. L'altro ieri è venuta una barchetta del papà e il figlio, sono usciti a mare tutta la notte e con la lampara hanno portato a terra 2 chili di pesce. Sono venuti al nostro locale e ci hanno detto, gente che ci rifornisce da più di una generazione, Fabio, dacci quello che tu ritieni giusto. Le faccio solo presente che di spesa di carburante erano 30 euro, quindi più 2 persone che lavorano tutta la notte per poi portare il prodotto a terra, e questo comunque pesa, certo. Poi un prezzo maggiore del pesce, ovviamente di allevamento, parliamo di 2 cose completamente diverse. Solina, il pesce è caro? Il pesce è caro, no, perché come ha detto il signore, io essendo figlio di pescatore e nonostante tutto il carburante qui costa 50 centesimi in più della terraferma, dobbiamo guardare la qualità, perché ad esempio, no, io capita del ristorante che il menù, per dire, c'ho i calamari, ma non sempre non ci sono, proprio per questo, perché non c'è il nostro calamaro locale, e allora sono disposto a non dare il calamaro, quello dell'estero surgelato, che magari può costare a meno prezzo, ma dare la qualità. Buttaroni, quanta gente si lamenta che arriva nella sua pescheria e dice ma questo pesce com'è caro? Il pesce è caro perché diciamo che quello proprio di prima qualità, come dicevamo prima, rombi, ce ne sono pochi. Quindi quando per esempio noi facciamo l'asta lì a Anzio, ci sono poche cassette e tutti quanti vorrebbero acquistarlo. Quindi noi facendo l'asta, quello, il pesce si alza. Certo. Come prezzo è normale che poi quando vieni dalla pescheria la gente un pochino si lamenta, specialmente questi giorni le sogliole costano tantissimo. Quanto costano questi giorni le sogliole? La sogliola adesso, quella fresca, anche più di 40 euro ieri all'asta hanno battuto, e quindi capisce bene, altre pescherie che fanno prendono quelle estere che costano molto molto meno della metà e le vendono un po' a un prezzo ragionevole, no? Molte persone, chi conosce il pesce vuole quello buono, certo, e non si lamenta. Quelle altre cercano anche di prendere questo un per po' risparmiarsi. Per risparmiare, certo. Bene, grazie a Massimiliano Buttaroni, grazie. Largo Irpinia di Roma, pescheria, a Fabio Quartieri, l'isola del pescatore di Santa Severa, e a Giuseppe Solina, trattoria e pescheria azzurra di Lampedusa. Io voglio chiudere questa trasmissione ringraziando tutti coloro che hanno partecipato a questo giro dell'Italia, ma soprattutto li voglio ringraziare con una bellissima canzone di Fabrizio De André, con la quale chiudiamo la trasmissione. All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. E chiese al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame, e chiese al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane, per chi diceva o sete o fame. Fu il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, davanti agli occhi ancora il sole, dietro alle spalle un pescatore, dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile giocato all'ombra d'un cortile. Vennero in sella due gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. E aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso.